La conchiglia Giacobea ci parla di un'altra grande dea, Venere, che non è altro che la madre, la grande età femminina primitiva. Venere è la signora della Galizia, colei che appare con la sua gonna di rete e il suo alone di luce, laddove si crearono i santuari oggi in piena attività. Le controverse apparizioni mariane che dettero luogo alla nascita dei grandi santuari in Europa a partire dal Medioevo, inclusi fenomeni moderni come Lourdes e Fatima, conservano caratteristiche che possiamo benissimo vedere in altre millenarie apparizioni di un'entità femminina circondata di luce, sempre in luoghi isolati e a piccoli gruppi, bimbi di cultura semplice, pastori vicino a grotte o ruscelli. Sono immagini di un essere divino, una signora, che corrisponde alle prime icone dell'arte religiosa dell'umanità, immagini della prima grande dea madre apparsa più di 20.000 anni fa in una regione che si estende dal lago Baikal fino ai Pirenei. Queste prime statuette sono piccole, lavorate in pietra, osso, avorio, argilla, con incisioni di cerchi, triangoli, foglie, reti, spirali e chevron. Le troviamo nel Paleolitico in grotte e valli francesi come l'Ossel. Nel Paleolitico il ciclo di vita, morte e rigenerazione si presenta per fasi lunari. Nel Neolitico si passa al ciclo annuale della semina e del raccolto. La luna incarna l'immagine essenziale del ciclo della vita rappresentato dalle quattro fasi lunari, dalla croce o dalla svastica di quattro o otto braccia. Immagini che giunsero al mondo ariano, alla greca Artemide e Atena. Inoltre si vedono in icone di poemi medievali come le Cantiche della Sacra Maria scritte in gallego dal re Alfonso X, il Saggio. All'immagine della Dea Madre si associano la terra, gli animali, le piante, gli uccelli e i serpenti. Nel Neolitico nasce la Dea della Vegetazione. Nel Ur-Heimat, la vecchia Europa, nelle pianure dell'Ucraina e della Galizia, da dove parte una popolazione dell'est non ariana verso il Finisterre tra il 7000 e il 3500 a.C. Il centro di attenzione era una dea che incarnava il principio creativo come centro di tutto. È la fonte dell'acqua, quella che cade dal cielo, che sorge dalle viscere della terra, e la colomba, la farfalla e l'ape. La dea che porta la vita e la morte è una sola unità con due teste, una dualità trasmessa ad altre civiltà, Sumer, Egitto. Non è solamente una manifestazione europea. In Oriente incontriamo Kuan Yin, la regina dell'est, la dea che vigila sul mondo, la madre dorata, la bianca Tara, la dea madre neolitica, la Vergine Maria del Cristianesimo, Isis in Egitto, Tara nel Buddismo, Shakti o Radha nell'Induismo. L'immagine più antica della dea in forma di ape, scolpita su una testa di toro, appare in Ucraina nel 4000 a.C. A Creta la si adora come signora del mare e dei suoi frutti, si rintraccia a lato di grifoni o leoni guardiani con simboli a forma di rete sulla gonna, con l'ascia a due tagli e l'albero della vita. La troviamo anche in Anatolia, in Sumer e in Egitto. In Anna, Ishtar, è la sacra pastora. Suo figlio è l'agnello sacrificato, rappresentava la stella del mattino, mentre la colomba quella della sera, proprio come Afrodite Venere. Il tempio di Afrodite in Cipro, nel XII secolo, era decorato con una stella, la luna crescente e la colomba. Isis è la regina dei mille nomi, del grano e delle colture. Il culto a Cibele anatolica e Frigia e i suoi rituali di iniziazione in grotte o cripte non sono stati ignorati dai templari e dai seguaci di Maria Vergine. È la dea toro e caprone, di Ariete e toro, segni zodiacali, adornata di rose. Numerose immagini medievali di Maria, tanto bizantine quanto nei templi del Cammino di Santiago, conservano il simbolismo e l'eredità millenaria con una speciale postura delle palme delle mani, illuminate da aloni di chiarore che cattura gli occhi dell'accolita e dell'accolito. La dea mostra il simbolo del toro con le dita pollice e indice poste a semicerchio, recanti una piccola sfera tra loro. l'immagine associata alla Dea Madre e al suo figlio amante, ancora si conservano lungo il cammino di Santiago, in Francia, Italia e Spagna, vergini nere con le loro mani gigantesche e straordinarie che ci portano a ricordare le immagini delle statuine di dee minoiche e la fenicia Hathor. Sono le Madonne di Ondarribia, Pueyo, Marsat, Lantenay, Dorres, Auvergne e tante altre. La grande Dea Madre si offre in immagini androgine, contiene la femminità e la mascolinità, si autogenera come vergine, è la vigna e suo figlio il grappolo d'uva, e tra i due esiste un'unità perfetta. Immagine e simbolismo confluito nel cristianesimo, il vino infatti è il sangue di Cristo. San Geronimo scrive che in Betlemme, il luogo di nascita di Gesù, era situato vicino a un bosco consacrato al dio Adone, marito di Afrodite. Si crede che l'entrata di popoli indoeuropei, giunti dalle steppe del Volga, nella patria di questa dea della vecchia Europa, portò il nuovo dio ariano. Sostituiscono le immagini lunari della cultura della dea con divinità solari maschili. Questi popoli sono nomadi, hanno una cultura di pastori e cavalieri orientati alla guerra, portano l'ascia e il raggio. Dunque gli europei sono eredi di entrambe le culture, che si fusero alla fine nell'età del bronzo, la civiltà della cultura lunare e quella solare. Apuleio, nel III secolo d.C., era un iniziato ai misteri di Iside, culto molto attivo fino al secolo successivo e presente anche in Galizia, tanto attivo che arrivò a superare la religione ufficiale centrata su un dio mascolino, come successivamente accadde per il culto di Maria, patrona dei Templari e dei Cistercensi. Alcune scuole di pensiero ritengono che si trattasse di Maria Maddalena. Nell'opera di Apuleio, L'asino d'oro, la dea si presenta al protagonista, Lucio, per trasformarlo da asino in uomo. La descrizione di Iside e le parole da lei pronunciate potrebbero tranquillamente venire dette durante un'apparizione mariana medievale, ma in una frase dice qualcosa di molto importante per noi. Dice: «Sono la divinità unica per chi venera il mondo sotto aspetti molteplici, con riti differenti e differenti nomi, ovvero i popoli del sole nascente e quelli che ricevono gli ultimi raggi del sole di ponente. Questo è il motivo per cui la dea aveva santuari in Galizia». In questa regione esistevano sante come quella di Muscia, Pastorizza o la Vergine del Monte di Camarignas, che intercedono per i marinai in caso di naufragi o attacchi di pirati. Inoltre, in una di queste zone vengono attribuite alla Vergine facoltà proprie delle divinità ariane o delle signore del territorio celta, quali Budicca, Britannia, Erin e Lupa, protettrici della patria, o identiche a quelle della dea del mare cretese, ultimo vestigio della divinità primigenia della vecchia Europa, come signora degli animali. Nella guerra di successione del 1705, 7 fregate inglesi attaccarono Muscia. I vicini abbandonarono il villaggio, ma una signora vestita di bianco sbarrò il passo agli attaccanti, affiancata da una schiera di animali selvaggi, ed evitò il saccheggio. Era la sovrana del territorio, signora di Muscia, Nuestra Signora della Barca, al comando di una moltitudine di leoni, lupi e cani alani. Nel secolo XII si diffonde il romanico, gli ordini religiosi, le crociate. È un secolo di abbondanza, vitalità e creatività, tanto in Galizia come in Europa. Un secolo di maestri costruttori e di commercio. Nel cammino di Santiago, sia i templari che i cistercensi consacrarono a Maria numerosi templi, grandi basiliche, santuari isolati in luoghi di antica tradizione. La proliferazione di apparizioni mariane e la devozione alla Vergine Maria sono sostenute da questi due ordini. Nascono numerose parrocchie in Galizia con un patrono e una patrona. Il monastero di Moraima in Muscia, originariamente di San Julián, comincia ad essere menzionato come di Santa Maria di Moraima. E non è casuale che numerose incorporazioni artistiche del romanico, in questo tempio e in altri simili, siano pieni di riferimento alla dea madre della vecchia cultura paleolitica nell'antica Europa, l'antica dea delle steppe. Gli uccelli dei portici di Moraima e Thereisho ci inducono a pensare alle colombe di Isis, Inanna, Afrodite e alla dea uccello del Neolitico. La Dea Madre Ancestrale indica che siamo di fronte alla manifestazione della sua presenza, con altri simboli come le serpi del caduceo sumero e di Hermes. I serpenti di Siberia sono identici a quelli di un bracciale di bronzo apparso nella necropoli galaico-romana di Moraime, con serpenti in forma di onde del mare e teste umane rassomiglianti all'uomo verde celta dei capitelli romanici. Ed ora il diario del mio cammino compiuto in 21 giorni nel 2012. Il viaggio di andata e ritorno, che compii appunto nel 2012 sul cammino pagano, da Santiago a Finisterre e poi a Muscia e ritorno a Santiago, durò esattamente 21 giorni. Ma mentre il cammino di andata era indicato molto chiaramente dai pilastrini bianchi con le famose conchas, le conchiglie gialle in campo azzurro, orientate nella direzione da prendere, dunque che indicano il cammino, al ritorno mi trovai in difficoltà, poiché il ritorno non ha indicazioni, trovandosi i pilastrini con le conchas nella direzione opposta. Non è previsto che il pellegrino o la pellegrina vengano guidati sul cammino di ritorno. Così, spesso alle biforcazioni, per capire quale strada prendere, io e la mia compagna di cammino Teresita dovemmo aspettare che arrivasse gente diretta al mare per imboccarne la strada. La prima notte la passai a Santiago de Compostela con un pernottamento in camerata al Seminario Menor. È il luogo dove i pellegrini provenienti dagli altri cammini giungono come ultima tappa. Per me, invece, era il punto di partenza. Ci svegliammo all'alba, ci vestimmo in silenzio per non disturbare pellegrine e pellegrini giunti stanchi alla fine del loro viaggio e scendemmo in strada dirette verso la cattedrale. Lungo il cammino ci fermammo in piazza Cervantes, dove un tempo venivano bruciate le streghe. Offrimmo un canto sottovoce alla fontana che oggi sorge in luogo del patibolo, pensando alle nostre sorelle, colpevoli di essere sapienti, e uscimmo dalla città ancora addormentata. Il primo giorno di cammino è di 22 chilometri. Non ci sono alloggi intermedi. Facemmo una prima pausa dopo il ponte di Quintans e mettemmo i piedi già stanchi nell'acqua del torrente. Poi proseguimmo fino a Augapessada per mangiare un panino con frittata e insalata e per bere acqua fresca, il tipico pasto di metà giornata di chi compie il cammino. Tra la fine del paese di Ames e l'inizio di Carballo ci fermammo alla fonte per mettere nuovamente i piedi in acqua, grate di questo ristoro. Prima di Negreira si attraversa il meraviglioso borgo di acque di Ponte Maceira, al quale si fa ritorno il giorno successivo. E finalmente si arriva a Negreira, all'alberghe, ovvero ostello del pellegrinaggio, simpatico e colorato, dove ci fermammo 2 notti. Lavammo i vestiti sudati, visto che nello zaino non ci stava un cambio. Feci un po' di spesa e cucinai il mio primo pasto nella cucina comune dell'ostello. Il secondo giorno volli tornare indietro di 5 chilometri a Ponte Maceira, appunto, per collegarmi all'acqua nei mulini sul fiume. L'acqua è l'energia dominante in questo borgo davvero speciale che sorge praticamente sul fiume e il mio cuore, da sempre collegato all'acqua e alla sua memoria, si riempì di allegria che sostituì la paura di non farcela, visto che non mi ero allenata e non sono mai stata una grande camminatrice. Ripartimmo la mattina del terzo giorno, con destinazione Negreira Santa Marina de Maroñas, a 20 chilometri. Alla fonte de Rapote, dopo circa 3,5 chilometri, facemmo una sosta per la colazione a base di pane, formaggio e frutta e per mettere i piedi in acqua. Un'altra sosta la facemmo più avanti, alla chiesina di San Mamede da Pena, dove ci concedemmo un tempo per meditare e cantare. Lungo il percorso incontrammo un ponticello di legno che attraversava un corso d'acqua dove di nuovo immergemmo i piedi. Il mio intento era quello di camminare connettendomi al territorio attraverso l'acqua che lo attraversa, che è portatrice di memoria e di progetto. Il secondo pezzo di strada si rivelò duro, non c'erano luoghi dove sostare. Attraversammo un'area di allevamento intensivo di bestiame dove sentimmo forte la sofferenza degli animali allevati in batteria e l'odore della loro paura e delle loro deiezioni. Collegai quel passaggio alla prima fase alchemica, quella della nigredo, la morte e putrefazione. E finalmente arrivammo a Santa Marigna de Marognas, alla Cassa Pepa, l'ostello dove ci aspettava un pasto a base di frittata di patate, insalata, patate fritte e birra. Pernottammo lì la quarta notte. L'ostello era nuovo, gradevole e pulito. Non si era ancora imbevuto del classico odore di muffa che via via cresce mentre si va verso il mare, dovuto all'umidità costante che arriva dall'Atlantico. La mattina seguente, sempre di buon'ora, partimmo da Santa Marigna de Marognas con l'intento di percorrere i 15 chilometri fino alla prossima tappa, Olveiroa. Dopo mezz'ora di cammino ci fermammo al Cruzeiro Templare, la croce che poggia sulla colonna che a sua volta poggia su un basamento a quattro facce. Mi fermavo spesso a contemplare in silenzio l'incanto del Monte Aro, la cui cima è un portale delle fate. Scendendo incontrammo un altro cruzeiro, quello di San Cristóbal de Corzón, e un cimitero con statue di angeli, ricco di simboli esoterici, petroglifi e fiori della vita sulla scalinata, un luogo davvero mistico al quale dedicammo del tempo in meditazione. Ebbi la sensazione di essere traslata in un'altra dimensione. Accendemmo un incenso sotto la colonna e offrimmo il profumo delle resine agli spiriti guardiani. Finalmente raggiungemmo Olveiroa e il prossimo ostello, che nel cammino si chiama Alberghe, precisamente l'Alberghe O Peregrino, sulla strada provinciale. Al bar, in piazza, mangiamo una minestra di lenticchie, una frittata e patate fritte. In quel confortevole ostello ci fermammo 2 notti, poiché il giorno seguente fu dedicato a una cerimonia di connessione alla terra, al dolmen Pedra d'Arca. Per raggiungerlo tornammo indietro di un bel pezzetto, facemmo una piccola sosta per la nostra colazione al sacco e una meditazione al cruzeiro della chiesa di San Martín de Olveira e proseguimmo per 3 ore di cammino, arrivando finalmente alla Pedra d'Arca, dove offrimmo erbe profumate alle antiche pietre e ci accucciammo dentro al piccolo dolmen in ascolto come dentro a un sacro utero. 2 giorni dopo ripartimmo verso ovest per la prossima tranche di 18 chilometri fino a Thee. Dopo un'ora di cammino circa, incontrammo sulla montagna un tratto lastricato di pietre verdi dall'energia risanatrice, simili alla avventurina grezza. Ci accorgemmo che assorbivano la nostra stanchezza. Così ci sdraiammo sul sentiero sopra le pietre e restammo per un po' in silenzio, a occhi chiusi, in totale connessione con la madre, abbandonate sul suolo. A Hospital il cammino si divide poi tra Finisterre e Muxía. Sentii che stavo attraversando un portale della dualità. Noi prendemmo la biforcazione verso sud, per Finisterre, e dopo mezz'ora circa eravamo sul monte Das Bouxantes, dove ci aspettava un enorme monolito a forma di balena, sul quale salimmo a piedi nudi e cantammo un inno alla vita. L'ultima emozionante ma durissima ora di cammino era in discesa. Le gambe erano stanche, le ginocchia dolenti, i piedi gonfi, ma finalmente si vedeva l'oceano, la nostra destinazione finale. La discesa era molto ripida. Arrivammo a Thee Brens, dove ci fermammo nel delizioso Alberghe O Bordon e crollammo decisamente sul letto, vestite con gli zaini sulle spalle. Il gestore dell'ostello, anche lui pellegrino di Compostela, conosce bene la fatica di quel tratto di strada. La sua accoglienza calda e paterna ci fece sentire accudite e protette. Dopo la doccia e il bucato di rito, Pedro, il padrone dell'ostello, ci accompagnò in auto a fare la spesa. Al ritorno cucinai la nostra cena, attentamente osservata da altri pellegrini, non usi alla cucina in ostello. In quell'oasi di pulizia e riposo passammo 2 notti, poiché avevamo deciso di prenderci tutto il tempo che ci occorreva anche per riposare, cosa che infatti facemmo il giorno dopo. Dell'ostello ricordo con divertimento il fatto che era enfatizzata sul cartello la presenza di un'asciugatrice insieme alla lavatrice. Questo sembra un fatto di poco conto, ma non lo è, se si pensa che solitamente si riparte la mattina dopo col bucato ancora bagnato che viene steso ad asciugare sullo zaino e si secca durante il cammino. E finalmente l'ultima tappa verso l'oceano, Finisterre, il luogo dove si incontra la puesta del sol. L'isola dei Beati, l'ovest mitologico a soli 5 chilometri. Era il giorno della verità. All'arrivo, dopo aver preso il letto nell'ostello, Scendemmo al porto a festeggiare il raggiungimento della prima meta, i primi 77 chilometri e il primo lato del triangolo che forma la zampa dell'oca, nonché la fine della prima fase alchemica, la Nigredo. Autostima, orgoglio, condivisione mentre festeggiavamo con calamari, patate e peperoni di padron fritti e un bicchiere di delizioso vino albarigno gelato. Dopo il lauto banchetto che ci offrì finalmente qualcosa di diverso dalla onnipresente frittata con le patate, percorremmo gli ultimi 2 chilometri che ci separavano dal faro, dove pregammo la madre, cantammo e bruciammo la maglietta che indossavamo per rispettare il rito. Poi ci spostammo sull'altro lato del promontorio per vedere il tramonto che in quella parte del pianeta, in quella stagione, tarda molto. In estate, infatti, il sole tramonta alle 10 di sera circa. Il mattino seguente ci alzammo di buon'ora per raggiungere l'Ara Solis, oggi conosciuta come Ermita de San Guillermo, e salutare il sole che sorge nella parte orientale della penisola. L'Ara Solis si raggiunge incamminandosi lungo la strada che porta al faro e girando poi verso la montagna lungo il sentiero principale. Onorare l'est all'estremo ovest d'Europa ci sembrò un modo ottimo per chiudere il cerchio congiungendo gli opposti. Lì improvvisammo una cerimonia di saluto alle 7 direzioni: l'est, il nord, l'ovest, il sud, l'alto, il basso e il centro, e nel pomeriggio ci riposammo sulla calda sabbia della Praia da Fora e ci concedemmo un corroborante bagno nell'oceano. Quella notte dormimmo ancora nel letto castello, incamerata al Finisterre. Il giorno dopo cominciava la seconda parte del cammino, il secondo lato della zampa dell'oca e la seconda fase alchemica, quella dell'albedo, la fase della luce. Partimmo alle 8:30 del mattino e percorremmo i 14 chilometri fino al punto intermedio tra Finisterre e Muscia, che si chiama Lires. Alla Praia d'Orostro festeggiammo la metà del cammino e l'inizio della fase di ritorno. Pernottammo all'albergue As Eiras, dove ci fu servito un delizioso pasto a base di zuppa calda, insalata, calamari fritti e birra. Nel pomeriggio raggiungemmo la Praia dell'Ires, un punto energetico forte dove il rio Castro taglia a metà il tratto Finisterre-Muscia come una tau, sfociando nell'oceano. L'incontro di acqua dolce e acqua salata ci ispirò a celebrare una nostra cerimonia di riconnessione alle forze della natura e facemmo piccole offerte di fiori selvatici al mare. Il mattino seguente, dopo l'abbondante colazione in ostello, partenza per Muscia, sempre seguendo la costa verso nord e tenendo il mare alla nostra sinistra. Dopo un'ora e mezza di cammino circa, ci fermammo al Cruzeiro Templare a bere l'acqua della sorgente. L'arrivo allo strepitoso albergue Bella Muscia fu un momento di festa. Il gestore Angel rispecchia perfettamente il suo nome. Un vero angelo custode del cammino, attento, accogliente, dolcissimo e molto paterno. Di nuovo il rituale dell'arrivo, bucato e doccia. Mangiammo gamberi e calamari e finalmente il tramonto alle antiche pietre, a poca distanza dall'ostello. Altari megalitici, luoghi di culto sul promontorio del Monte Corpigno, proprio in riva al mare. Questi altari megalitici, come già raccontato in precedenza, vengono venerati come manifestazioni della Grande Madre da molti millenni prima di Cristo e vi si celebravano riti iniziatici di passaggio e di guarigione. Passammo a Muscia la 12ª notte di shakespeariana memoria e quella successiva e passammo l'intera giornata in perlustrazione e meditazione sul Monte Corpigno, l'estesa area cerimoniale di altari monolitici e costruzioni circolari fatte di pietre assemblate a secco, simili alle tor scozzesi, sarde e rapanui. Percorremmo tutta l'area in salita e ci fermammo in cima per una preghiera e un ringraziamento in contemplazione dell'oceano e degli altari megalitici sottostanti. Avevamo concluso la seconda tratta di 28 chilometri e cominciava ora la terza fase alchemica, la Rubedo, il terzo lato della zampa dell'oca, il cammino di ritorno a Santiago di 70 chilometri. Da Muscia prendemmo il cammino in direzione San Martino de Othon a 4 chilometri, ma lungo la strada ci fermammo alla chiesa romanica di Santa Maria de Moraime, luogo magico dedicato alla levata eliaca. Ci sedemmo sullo scalino sotto il timpano della porta nord, quello con la scultura dei sette saggi col bambino che rappresentano le sette Pleiadi e il sole nascente. A San Martino de Othon pernottammo nel delizioso alberghe Aurora de los Caminos, ricavato all'interno di un monastero del XII secolo, restaurato da una cooperativa coordinata da due coraggiose donne, Marta e Soraya. All'arrivo mettemmo immediatamente i piedi nella fontana all'ingresso del monastero per ristorarci. All'epoca del mio cammino erano benvenuti e benvenute coloro che offrivano lavoro in cambio di vitto e alloggio. Era anche possibile, cosa che facemmo, pernottare nella Horreo, la tradizionale costruzione in pietra sopraelevata e utilizzata come magazzino. Quello di Aurora de los Caminos è il quinto Horreo più grande di tutta la Spagna ed è originale del XVI secolo. Fu davvero un'esperienza mistica. Il sito è unico anche per la presenza di tre cruzeiros vicini, a triangolo. Con grandi abbracci a Marta e Soraya ripartimmo il mattino dopo per Dumbria. Ci aspettava una tratta di 18 chilometri in cui cominciammo subito a sperimentare la difficoltà di percorrere il cammino a rovescio e ogni tanto ci fermavamo ad aspettare chi veniva da Santiago per imboccare il sentiero giusto. A Vilastose Senande imboccammo la deviazione per Las Caldeiras do Castro, le cascate nel rio Castro che avevamo incontrato sulla spiaggia. Le cascate erano sacre per i Celti Neri. Nelle acque vibrazionali del rio Castro ci immergemmo e ci purificammo. Nel pomeriggio arrivammo all'albergue municipal di Dumbria, il solito rituale, bucato doccia e poi pasto combinato nel bar municipale, tre uova, insalata, patate fritte e birra. Il giorno successivo era quello in cui ci saremmo ricollegate al cammino di andata, chiudendo il triangolo. L'ultimo pezzo si percorre sulla stessa strada dell'andata. Da Dumbria puntammo dunque verso Olveiroa, fermandoci alla concia che riunisce i due cammini in uno, per un ringraziamento e un'offerta. Ritrovammo il tratto lastricato di pietre verdi che avevamo già sperimentato all'andata e di nuovo ci sdraiamo sul sentiero per rilasciare nella terra ciò che non volevamo portare con noi. E infine arrivammo all'albergue peregrino di Olveiroa. Facemmo un pasto al bar Loncio vicino all'albergue municipal dove pernottammo. I successivi 5 giorni furono un ripercorrere le tappe dell'andata osservando le nostre emozioni rispetto al viaggio di andata, poiché, come ho detto, non sono una grande camminatrice, temendo di non farcela, mi ero portata un carrellino sul quale caricavo lo zaino a turno con Teresita. Nessuno sul cammino aveva mai osato prima togliersi lo zaino dalle spalle e trascinarlo su rotelle. Il rumore era decisamente fastidioso, ma in compenso, alle mie spalle, potevano trovare sollievo. Mi divertivo a osservare le occhiate tra lo sprezzante e l'invidioso di alcuni tra i pellegrini più ortodossi. La sera del 20° giorno dalla partenza entrammo finalmente trionfanti in Santiago, dove ci fermammo alla fontana delle quattro direzioni per ringraziare, bagnare i piedi e buttare via le scarpe. Percorremmo l'ultimo tratto fino all'ostello in ciabatte. Passammo la notte al seminario Menor, dove ritrovai con tenerezza le dozzine di stendini aperti nei corridoi, carichi di magliette, mutande e calzini appena lavati di coloro che arrivavano dagli altri cammini. Il mattino seguente, di buon'ora, entrai nella cattedrale prima dell'arrivo dei pullman carichi di turisti. Scesi nella cripta e sostai davanti alla Madonna Nera nella piccola cappella dietro l'altare maggiore, dove meditai sulla sacra femminità rappresentata dal cammino dell'oca, la cui forma triangolare è la stessa della vulva nei pittogrammi neolitici dell'epoca matrifocale. Infine, nella navata sinistra, entrai nella cappella di Santa Maria Antigua, detta Corticella, per una meditazione. L'ultima notte al seminario Menor segnò la fine di questo viaggio straordinario, indimenticabile. La mattina dopo, all'aeroporto, salutai Teresita che proseguiva in pullman per Madrid e tornai in Italia, decisa a scrivere un libro. Questo. Fine.